fa muro, la notte non va. Io conto i minuti e tengo duro, oggi ci arrivo, te lo giuro. Oggi cado, mi rialzo qua, stringo i denti e si ripartirà. È la mia vita, anche con l'off io tengo la linea. Non mi fermo, non mi va, questa è la mia realtà. Alle 8 mi alleno, su un po' di più, al 10 cammino, respiro e va, a mezzogiorno voce si lavora anche là, alle 13 rosa, mi pesa lo so, alle 14 xuf, ma non mollo però, alle 15 palestra mi rimetto in moto, alle 17 ancora gialla, non è un gioco. Alle 18 leggo ma mi scappa la testa, allora chiudo gli occhi e ricomincio da questa. È la mia vita, è la mia vita, io non mi arrendo, c'è ancora partita.